gira in qua quella tavola, stendiamoci sopra questa coperta, qua una sedia, qua un'altra, una sgabello, un altro qua, va bene, oh figlia mia, tu sei nata vestita. Certo, una gran fortuna. Oh scimunita, eccola lì, si tratta di diventare una gran dama. E perdere l'uso di lavorare e di star sana. Andar sempre in carrozza o in portantina. Quando si vuole tante, mi parebbe di stare alla berlina. Vestir sempre di stoffa e di velluto. Forse farà più il freddo. Avere il gusto di portar sempre i guanti infante. Oh, certo, il piacer non è piccolo. Spatacchiarli stinchi in quel trabiccolo. Aver tante persone al suo servizio. E far sapere al pubblico tutti i fatti suoi. Aver ogni d'intavola, non un pranzo, un convito. Buonissima invenzione, appunto per far perdere l'appetito. Chetati, pazzarella, che oror ti picchierei. Come volete che io mi possa adattare a far da dama? Che sei forse la prima, e figlia mia, allor che la fortuna ha fatto il resto, il fumo e le pazzie si piglian presto. Ma zitto, seducente, sarà forse il marchese che torna col notaio per formar la scrittura. Or vedrai che cosa voglia dire cambiar di panni. E no,